Per quello che concerne le autorizzazioni, cioè le licenze nuove concesse, siamo a un complessivo di circa 5,1 miliardi di euro, che è abbastanza in linea con quello registrato l'anno scorso, per l'anno scorso si intende 2018, e non siamo ai livelli dei record avuti nei tre anni precedenti, che sono arrivati fino a 14 miliardi, però siamo all'80% in più di quanto si aveva prima di questo picco. Come a dire, trainata da queste grosse commesse degli ultimi anni, ormai il livello di autorizzazioni, il livello di export italiano è cresciuto in maniera stabile. Rimane invece del tutto uguale per ora l'export complessivo effettivo, cioè non solo l'autorizzato, ma anche quello che poi è stato effettivamente esportato nel corso del 2019 e quindi anche fatturato. Siamo circa sui 3 miliardi di euro, per cui in un certo senso è un comparto in salute per quanto riguarda quel comparto, anche se, e questo mi preme sottolinearlo, è un comparto marginale rispetto all'economia italiana, cioè è preoccupante, è problematico e poi magari lo vedremo per le destinazioni delle armi, ma non stiamo parlando della parte economica principale del nostro paese, quindi è importante anche sottolinearlo. Perché? Perché vuol dire che potremmo investire le nostre risorse e spingere la nostra economia su altre strade. Ecco, sì, parlavi di destinazione, la destinazione principale di queste licenze è l'Egitto, paese che insomma si è rifiutato di fare chiarezza e di collaborare per quanto riguarda l'uccisione di Giulio Regeni e nelle cui carceri in questo momento viene detenuto Patrick Zaki, studente del Gemma qui a Bologna. Esattamente, questo è l'elemento più preoccupante. Negli anni scorsi avevamo avuto come principali destinatari il Qatar, il Kuwait, quindi già dei paesi problematici nella zona più legata alla penisola arabica. Quest'anno purtroppo dobbiamo registrare che quasi 900 milioni di euro di licenze sono destinate all'Egitto, che non solo, come giustamente avete ricordato, è implicato nei casi di Giulio Regeni e di Patrick Zaki, ma ricordiamo è anche uno degli attori che destabilizzano maggiormente la Libia, peraltro anche sospettato di violare l'embargo internazionale delle armi verso il conflitto libico. Quindi legarci a loro, non solo in generale, ma anche proprio in specifico sugli armamenti, ci sembra proprio un grave errore. La responsabilità sulle decisioni ovviamente è a metà tra il Conte 1, il governo Conte 1 e il governo Conte 2. Una cosa che abbiamo chiesto è anche di capire quando sono state date queste autorizzazioni e quindi chi ne ha la paternità, chi ne è responsabile, anche per valutare se ci sia stato o meno un cambio di rotta. Peraltro pure il secondo paese della classifica, chiamiamola così, delle nuove licenze è un regime autoritario come il Turkmenistan, che l'anno precedente non aveva ricevuto alcuna autorizzazione, ma che invece nel corso del 2019 si è visto dare l'ok per oltre 400 milioni di euro di acquisti di armi italiane. Ecco, oltre alla quantità, che è grande perché si tratta di armi, ma è piccola economicamente, come ho detto prima, il problema vero sono le destinazioni, è la qualità delle destinazioni. La legge 195 che regola l'export di armi era nata per cercare di indirizzare i nostri export verso gli alleati naturali, quindi i paesi della UE e della NATO. Indipendentemente da quello che uno possa pensare della UE e della NATO, quelli sono i nostri alleati naturali. E invece, ancora una volta, nei dati appena rivelati, si dimostra che stiamo andando da tutt'altra parte, perché il 62% del controvalore delle autorizzazioni è dato a paesi che non stanno né nell'Unione Europea né nella NATO. Come a dire, che sono saltate da qualche anno ormai, purtroppo, tutte le regole, c'è meno controllo e quello che si vuole fare è solamente spingere il business delle armi. Sono circa 84 i paesi verso cui spediamo i nostri armamenti, sono tantissimi. Ecco, un'ultima domanda anche per chiarire un attimo rispetto ai dati a cui stiamo facendo riferimento, che fanno parte di una relazione che è stata trasmessa ora alle Camere, ma che è una relazione che è molto in ritardo rispetto alla pubblicazione. Sì, la legge parla chiaro, la relazione al Parlamento dovrebbe pervenire alle Camere entro il 31 marzo, quindi stiamo parlando di un mese e mezzo di ritardo. Qualcuno potrebbe pensare, quest'anno è un anno eccezionale, purtroppo c'è stata la pandemia di Covid-19, però in realtà sono anni ormai che questo ritardo permane. Anche l'anno scorso la relazione è arrivata 2 giorni prima rispetto a quello di quest'anno, quindi sembra veramente che ci sia una tendenza a non voler controllare quello che succede, perché ovviamente se la relazione, che già è lunga e complessa, non è completa del tutto, è di difficile lettura, solo gli esperti riescono, quindi anche un parlamentare fa fatica, se arriva anche in ritardo, purtroppo quello che succede, come negli ultimi anni, è che il Parlamento non la discute. Il concetto non è solo avere dei numeri, avere dei dati che qualche analista può analizzare e su cui può sbizzarrirsi. Il concetto è che la relazione del Parlamento era stata scritta nella legge, era stata richiesta dalla legge come strumento di controllo e strumento di verifica da parte del Parlamento sovrano del fatto se o meno le licenze venissero rilasciate non solo del rispetto delle leggi italiane, delle norme internazionali che poi siano state, ma anche nell'ottica della politica estera. Questo non succede e quindi ci sembra davvero che tutte queste piccole sassolini nell'ingranaggio vengano un po' messi per evitare che ci sia una presa di coscienza e una discussione, un dibattito in Parlamento rispetto a questo. Cercheremo e chiederemo ancora una volta che invece le Camere ne discutano.